Forse la nascita del linguaggio va oltre la teoria gestuale, ma l'uso dei gesti per me è affascinante, anche perché solo un linguaggio a sé stante non sempre volontario. Un uomo che danza può comunicarsi stati d'animo senza l'astrazione, per la quale è necessario un vocabolario, mentre la gestualità come partitura del linguaggio scompare quando l'astrazione aumenta. Ma tutto questo non ti interessa, poiché tu non vuoi esprimerti, ma solo fare il figo con le bimbe, con le quali balli o parli in occasioni ben distinte. Se io le sovrapponessi, se mi muovessi con gesti connessi a ciò che dico, ognuno esaltato e appassionato come a teatro, ma nella tua morale i comportamenti nuovi non sono permessi. Hai paura di essere giudicato e ti convinci che gesticolare sia da rapper ovvero da fessi, allora dovresti anche dosare l'uso del mio muscolo facciale. Dopo una pista di coca vai in pista, arriva il tipo che poga, che si sente giustificato a spingermi, mentre segue un concerto e mi dà del femminato per convincermi. No, grazie, la tecnica del non hai le palle di mi ha sottomesso solo nell'adolescenza. A volte l'esibizione per voi è solo una masturbazione dell'autostima da performer, ma quando fate autoerotismo fisico cancellate le orme. Per questo mi tocco in pubblico senza problemi, ma non faccio futili concerti o schemi opposti ai vostri. Ballo ma non in pista, ballo ma non in pista, ballo ma non in pista.